abitavi a due passi da me. Anche se scapigliata, pomeriggio e di sera, quando uscivo io uscivo con te. Ma che strano il destino, noi cambiamo quartiere. Io cercai un nuovo amore, anche se l'ho trovato, non ti posso scordare. Quartiere dove ho vissuto il primo amore. Quartiere di dietro, con lo sguardo lontano, con i sogni nel vento, ti gridavo ti amo. Amor.